1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari italiani, alle 7:18 minuti. Come ho detto prima, dove eravate finiti la scorsa settimana? Debosciati che non siete altro. Eccoci, ebbene, sono tornato, sono le 7:18 minuti. Oggi vi ricordo che parleremo di attualità politica, di questi 80 euro, delle riforme, del Senato, della campagna elettorale sinceramente alquanto cialtrona che stiamo vedendo e che vedremo anche nel prossimo mese. E avremo ospiti il responsabile comunicazione del Partito Democratico Francesco Nicodemo, avremo ospite Daniele Martinelli che è un giornalista e blogger, ha fatto parte anche della comunicazione del Movimento 5 Stelle, avremo ospite anche alle 8:45 il senatore Vannino Chiti, colui che è considerato l'esponente del Partito Democratico e sta portando avanti un progetto alternativo a Matteo Renzi e alla maggioranza del PD sulla riforma del Senato. Siccome ci sono novità importanti anche su questo tema, oggi sui giornali ne parleremo con lui alle 8:45. Ora che facciamo? Leggiamo i giornali? Sì. In questo lunedì 28 aprile, intanto i titoli dei quotidiani, sono molti i quotidiani che aprono dedicando chi 11 pagine, come il Corriere della Sera, alle prime 11, chi 9 pagine, come Repubblica, alle prime 9, all'evento, alla canonizzazione ieri dei due papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, e insomma quello che è successo in Vaticano con le centinaia di migliaia, forse il milione più di fedeli che si sono riversati a Roma. Francesco e due uomini coraggiosi, così apre il Corriere della Sera, mentre per il Messaggero due santi coraggiosi, questo è il titolo di prima pagina. Un milione in piazza per i due papi santi, così titola il Secolo XIX, mentre per il Giorno il miracolo di Roma. Venendo invece alle questioni più proiettate sul futuro, quello che succederà, vi leggo i titoli del Sole 24 Ore. Il contrasto all'evasione accelera in 5 mosse. Sono le mosse allo studio dal decreto Renzi, più efficienza nell'uso delle banche dati, spazio al rientro dei capitali. Tutte le novità allo studio per combattere l'evasione fiscale. Per Repubblica invece Renzi, ecco il nuovo patto sul Senato, pronta la mediazione sulla riforma, questo è il titolo. E il titolo di apertura della Stampa invece, con cui aprirò la rassegna, è questo: bollette, è ora di tagliare, pressing sul governo sui costi dell'energia sempre più alti in questi anni. Per l'Unità invece c'è un'intervista al ministro del lavoro Poletti, ecco il piano giovani che parte dal 1 maggio, si chiama Garanzia Giovani, è un'opportunità per l'occupazione. Il Fatto Quotidiano apre anche lui sui due santi della nuova chiesa con una foto dello scenario sicuramente impressionante per la folla di ieri in piazza San Pietro, mentre il giornale mette in titolo di prima pagina Le vergogne di Scalfari. C'è un duro editoriale di Alessandro Sallusti, tra l'altro anche con un avviso un pochino oscuro che vedremo più avanti. Il giornale con Sallusti risponde all'editoriale di ieri di Scalfari, che ha accusato i giudici di essere stati troppo teneri nella condanna a Silvio Berlusconi. In ogni caso, io come detto voglio partire da questa notizia che è in prima sulla Stampa e riguarda le bollette degli italiani, un qualcosa che certamente riguarda tutti voi e tutti noi, cari ascoltatori. Giuseppe Bottero racconta, pagina 2, come la battaglia sui costi dell'energia sia una battaglia che ha visto gli italiani perderci e perdere molto negli ultimi anni. Il titolo è Aiuti mascherati, sussidi di Stato, così la tariffa vola. In 5 anni il peso sulla spesa per l'elettricità è triplicato. Peggio di noi hanno fatto solo Cipro, che ha visto lievitare le tariffe del 21%, e la Grecia, dove i prezzi sono saliti del 15%. Il costo delle materie prime è sceso, i consumi sono ai minimi degli anni 90, non si vedono segni di ripresa, eppure le bollette continuano a crescere. In Italia c'è stato un balzo secco dal 2009 al 2012 del 10% medio, poi un periodo di tregua che ha portato la spesa media per le famiglie nel corso dell'ultimo trimestre a quota 512 euro l'anno. Questa è la zavorra media che ci portiamo avanti. E perché queste cifre che salgono sempre di più? Beh, c'è una giungla di oneri, tasse, incentivi, balzelli, sussidi indiretti, una sfilza di voci che si è ingrossata di anno in anno il barba al mercato, la competizione. Ogni due mesi contribuiamo a sostenere vecchissimi interventi come quello alla centrale nucleare di Trino Vercellese, a colpire le agevolazioni per le società con alti consumi individuate per la legge, e le società ormai si sono ridotte a una, Ferrovie dello Stato. Incentiviamo piani di ricerca, ma non lo sappiamo. E ancora 4,6 euro li paghiamo, per esempio, appunto per la messa in sicurezza del nucleare. 7,44 finiscono ad agevolare le imprese manifatturiere a forte consumo energetico, un tesoretto da 300 milioni l'anno, ogni famiglia contribuisce con 2,18 euro, destinato a chi? Alle Ferrovie dello Stato, che gode di una tariffa speciale. E a fianco a questo e a queste voci che fanno certamente arrabbiare, c'è un'intervista al presidente dell'Authority per l'energia Guido Bortoni, intervistato a pagina 3 da Francesco Manacorda. Dice: tagliare la bolletta si può, sono troppi gli oneri occulti che troviamo in bolletta. La strada corretta intrapresa dal governo è quella di ridurre i costi non derivanti dal mercato dell'energia elettrica invece che spostarli tra una classe di consumatore e l'altra. È ciò che prevede anche l'Authority per l'energia, che promuove i propositi del governo di abbattere del 10% il costo delle bollette. C'è l'intervista al presidente Guido Bortoni per l'Autorità per l'Energia. Ma certo, questo aumento delle bollette non si sa perché, o meglio si sa perché, viene spiegato appunto nei dettagli della stampa, con troppi oneri occulti, è un qualcosa che fa tenere le mani strette sul volante. Sì, lo devo dire, perché era una settimana che mancava. A tutti voi che siete in macchina, io ho detto campagna elettorale, prima sono stato un po' duro con campagna elettorale, che tra l'altro entra nel vivo, adesso assisteremo a un mese di dichiarazioni un po' così, ma in ogni caso due notizie mi hanno colpito riguardo ad altro tipo di campagna elettorale, quello per le amministrative, visto che non si vota solo per il Parlamento. Beh, ormai è ufficiale, torna in pista all'alba di 86 anni Ciriaco De Mita, che si candida a sindaco nella sua Annusco in provincia di Avellino. Torno perché c'è chi a 20 anni è più vecchio di me, racconta così a Repubblica Ottavio Lucarelli a pagina 11 Ciriaco De Mita il perché del ritorno. Solo chi si arrende è vecchio in politica, qualcuno lo è già a 20 anni. Così dice: il problema dell'Italia è aver introdotto una strada nozione. Non si distingue più tra chi è capace e chi è meno capace, ma piuttosto tra chi è giovane e possibilmente donna. Per me la politica significa ragionare e risolvere i problemi, io così misuro l'età. Ma perché si candida Annusco? Per ricostruire la comunità, come ho scritto nel programma, risponde De Mita. A proposito del programma, cos'altro c'è scritto nel programma? Poche righe. Ho citato una frase di Aldo Moro quando disse che il programma non è un arido elenco di cose da fare, e ho aggiunto che bisogna ricostruire la comunità. Questo l'aveva già detto a metà dell'intervista. Comunque, Ciriaco De Mita torna candidato a Nusco a 86 anni perché dice: a 20 anni c'è chi in politica è più vecchio di me. E sempre a proposito di amministrative, mi ha colpito la storia che proviene da Tirano, in provincia di Sondrio, e dunque in Valtellina, Lombardia. Cristina Bassi la racconta sul Giornale a pagina 11. Il titolo è questo: il PD scorda lo Ius Soli, escluso un candidato perché è nato in Congo. È la storia di un medico, di uno pneumologo, Vicky Cimanga, che si voleva candidare a Tirano per le comunali del 25 maggio in Sel. Rinnova Tirano, in realtà è la lista civica tra SEL e PD, ma è stato escluso, dice lui in una conferenza stampa anche abbastanza arrabbiato, perché hanno chiesto un requisito di tiranesità, cioè di essere valtellinesi doc, cittadini legati alla comunità di Tirano. E allora lui in conferenza stampa dice: non avrei mai pensato che nel 2014 persone relativamente giovani e apparentemente colte e aperte di mente potessero per motivi elettorali sostenere una cosa del genere. Non potete immaginare la mia delusione di fronte a tali argomentazioni. Sono stato contattato per formare una lista di sinistra, stavolta ci ho pensato, ma ho rinunciato all'idea solo per onestà intellettuale. Spero che la mia denuncia servirà ad aprire la mente a persone di buona volontà. Dice lui, insomma, medico, pneumologo, nato in Congo, ma cittadino d'Italia da, cittadino italiano da decenni, residente a Tirano, sono stato escluso perché non tiranese doc. E il giornale fa una polemica dicendo: cara ex ministro Cécile Kyenge, che ne pensa di questa vicenda? Si sono scordati dello Ius Soli proprio a sinistra, nonostante la battaglia dell'ex ministro. Lo trovate questa storia sul giornale. E noi dopo la pubblicità riprendiamo da che cosa? Dal resto dell'attualità politica, il discorso del Senato. Ieri il Corriere titolava così: giuro, mi sta andando per traverso il caffè, è la settimana decisiva per la battaglia sul Senato. Quello che sappiamo è che è iniziata ufficialmente oggi la 52esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 52esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. State con noi. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan. Oh, sempre l'ascolto, eh. Grandissimo il Gabibbo. E allora eccoci qui alle 7:33 minuti, cari italiani, continuiamo la lettura dei giornali. E una delle notizie politiche che tra l'altro affronteremo anche noi alle 8:45 con il senatore Vannino Chiti, che sarà nostro ospite, colui che vuole una proposta alternativa di riforma del Senato. Intanto ringrazio Milan Lucchetti che mi ha portato dell'acqua, se no stavo quasi svenendo. E, dicevo, la notizia del Senato è certamente una notizia politica che c'è sui giornali, perché ieri Matteo Renzi, che è stato ospite di Lucia Annunziata da su Rai 3 in mezz'ora, ha parlato anche di questo. La notizia più interessante, o meglio nuova sul Senato, c'è su Repubblica, nel retroscena di Francesco Bei a pagina 10. Il titolo è questo: Senato, l'ok è vicino, Renzi convince la minoranza del PD e sui tempi dice no ai totem. Ormai è fatta, inizia così l'articolo di Repubblica. Il nuovo Senato non sarà elettivo, ma formato da consiglieri regionali. Questi tuttavia lavoreranno a tempo pieno a Palazzo Madama. In vista di mercoledì, quando i relatori Finocchiaro e Calderoli dovranno depositare il testo base della riforma, una trattativa riservata è stata condotta per tutto il fine settimana e avrebbe prodotto questa soluzione di compromesso, su cui sarebbe arrivata anche già la benedizione del Quirinale. L'accordo sul nuovo Senato è ormai a un passo, conferma Matteo Renzi ieri a In Mezz'ora. Certo, il Premier continua a considerare come punto di mediazione quello di consiglieri regionali che individuano al proprio interno quale di loro mandare al Senato. Secondo Repubblica, su questa clausola anche la minoranza bersaniana del PD, che domani si ribattezzerà ufficialmente Area Riformista, è pronta a chiudere l'intesa abbandonando Vannino Chiti e il suo progetto di Senato elettivo al suo destino. Dunque, secondo Repubblica, c'è questo accordo. Il Senato sarà composto da consiglieri regionali che lavoreranno a tempo pieno a Palazzo Madama. Quindi in qualche modo è elettivo, nel senso che i consiglieri regionali vengono scelti. E questo accordo metterebbe in totale minoranza la proposta di Vannino Chiti, che avremo ospite alle 8:45. Tra l'altro, Vannino Chiti, secondo invece il Corriere della Sera, in un'intervista di Beppe Grillo, che è stata fatta da Agorà su Rai 3, che verrà mandata in onda questa mattina, Grillo invece in qualche modo si avvicina a lui, a fa avvicinare il movimento alla proposta di Vannino Chiti. Basta con i nominati, questo è il titolo a pagina 15 del Corriere della Sera, e il Movimento 5 Stelle appoggerà la proposta Chiti per un Senato elettivo, un Senato espressione dei cittadini e non dei partiti e del Presidente della Repubblica. Così ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, sul blog. Dunque un rifiuto secco all'idea di una Camera nominata e non scelta direttamente dai cittadini. Poi ovviamente Beppe Grillo ha detto anche altre cose, come l'attacco per esempio a Renzi, e insomma siamo in piena campagna elettorale. A proposito di piena campagna elettorale, ieri Renzi per l'appunto è andato da Lucia Annunziata, tutti i giornali raccontano, fanno un resoconto delle interviste. Abituatevi, da qui al 25 maggio vedremo tutti i leader fare tutta una serie di comparsate ovunque, ci spunteranno dai forni, dai frigoriferi, dalle lavatrici. Cari ascoltatori, abituatevi, siamo nuovamente nel pieno della campagna elettorale. Allora Marco Galluzzo racconta, pagina 12 del Corriere, inaccettabile la frase sui lager. Questo è il titolo di Matteo Renzi contro la frase di Berlusconi sui lager, per l'appunto, che secondo i tedeschi non esisterebbero in Germania. Dice ieri Renzi: sono a Palazzo Chigi da 64 giorni, non è cambiato il paese, ma una sensazione di speranza ha cominciato a diffondersi. Berlusconi sul Senato ha chiesto di cambiare alcune cose, credo che sia legittimo ascoltare Berlusconi, Grillo e chiunque dica la sua. E poi ancora sugli 80 euro il bonus riferito a Grillo e Berlusconi, forse per loro che hanno un certo tenore di vita non sono nulla, per Grillo sono due biglietti del suo show, ma per un operaio e un dipendente fanno la differenza. Mentre dall'altra parte Berlusconi ha fatto un'ora e mezza di come dire, più monologo che intervista a Canale 5, da Barbara D'Urso. Berlusconi Show a Canale 5, mai detto che avrei rotto il patto con Matteo, l'intesa c'è già. Pagina 14 del Corriere della Sera, un'intera pagina di racconto, ovviamente ancora si concentra sui cani, i cagnolini, sapete che è la svolta animalista che porterà dei voti secondo Silvio Berlusconi e dunque porta a concentrarlo con tanti interventi sui cani, tanto che il Messaggero titola così: Berlusconi punta tutto su Francesca e Dudù. Francesca Pascale e Dudù. E anche la Stampa: Berlusconi sgravi e sconti per chi adotta cani e gatti. Su Francesca Pascale ha detto: studia molto, mentre io leggo, anche lei, io lavoro fino alle 2 di notte, lei studia, legge per aumentare la propria istruzione, è un'enciclopedia vivente, riesce a leggermi nella mente quello che penso, ecco perché mi devo sempre tenere con pensieri puri. Così dice Silvio Berlusconi di Francesca Pascale. A proposito di quella frase che come minimo si può definire infelice sulla questione dei lager, che secondo i tedeschi non esisterebbero, fa parte tutto di una strategia, come racconta Paola Di Caro. Calci all'Europa tedesca e alla sinistra delle tasse. Pagina 14 il Corriere della Sera, la strategia doppia di Berlusconi sarà proprio questa: attaccare il più possibile la Germania, anche con quella che all'interno del suo cerchio ristretto di fedelissimi viene definita una frase tutt'al più un po' troppo sopra le righe, da non ripetere proprio in questa forma, ma né una gaffe né qualcosa di cui pentirsi, cioè la frase sui lager. E poi l'altro mantra che ripeterà Berlusconi, secondo il Corriere della Sera, in questa campagna elettorale, già ieri l'ha fatto la Barbara D'Urso, è: Renzi è un tassatore, provenendo dalla sinistra è uno che ama alzare la spesa e le tasse. A proposito di campagna elettorale, mentre Renzi oggi va da Maria De Filippi, o meglio dire torna da Maria De Filippi, dopo il chiodo, il giubbettino alla Fonzi di un anno fa, oggi, come racconta Tommaso Labate a pagina 13 del Corriere, Renzi registrerà nuovamente come l'anno scorso, la puntata di Maria De Filippi che andrà in onda sabato prossimo. E quindi questo anche per la campagna elettorale. A proposito di campagna elettorale, una campagna elettorale come racconta il Messaggero, con tante dichiarazioni come al solito che poi non verranno mantenute, ma questo è un gran classico di tutte le campagne elettorali. E poi E poi è una campagna elettorale low cost. Pagina 9 del Messaggero, Diodato Pirone racconta: i partiti tirano la cinghia, la campagna è low cost, con le europee c'è una spending review da sinistra a destra, i tagli del PD, Forza Italia invece ancora senza budget, c'è un tetto di 180.000 euro per i candidati e i sondaggisti dicono voterà la metà degli italiani. 3,3 milioni è la cifra stanziata dal Partito Democratico per le elezioni europee, 5 anni fa furono spesi 13 milioni, quindi 10 milioni in meno. Mentre 300.000 euro è la cifra stanziata per le europee dal nuovo centrodestra, un partito che si autofinanzia. 180.000 euro è il tetto medio di spese elettorali in vigore per ogni candidato alle prossime europee. 180.000 euro, ma comunque è una campagna elettorale sicuramente di partiti a dieta. Per quel che riguarda invece le questioni più economiche, registro un'intervista al ministro del lavoro Giuliano Poletti. Giuliano Poletti oggi sull'Unità, intervistato da Bianca Di Giovanni, in prima pagina racconta come il governo punta a migliorare il lavoro per i giovani. Si chiama questa iniziativa, che partirà proprio il primo maggio, peraltro, Garanzia Giovani, è un piano europeo che mira a dare a tutti un'opportunità, racconta Poletti sull'Unità a pagina 7, l'intervista inizia in prima pagina per la Verità, è rivolta a tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano, non seguono corsi formativi, i cosiddetti NEET, in acronimo. Per loro dal 1 maggio ci si può registrare sul portale Garanzia Giovani. Tutti verranno chiamati da un'agenzia per l'impiego regionale o privata convenzionata per un colloquio da cui scaturirà un profilo e sulla base di questo profilo entro 4 mesi sarà fatta una proposta concreta. O un contratto di apprendistato, un corso di formazione, un percorso di specializzazione, un servizio civile presso i centri selezionati attraverso dei bandi. Dunque un programma di 2 anni per i giovani tra i 15 e i 29 anni che parte il 1 maggio, giovani che sono appunto in questa categoria cosiddetta NEET, cioè particolare, giovani che non studiano, non lavorano e non stanno seguendo alcun corso formativo. A proposito di questa categoria, saluto Mauro Meazza del Sole 24 Ore, giovane. Buongiorno. Che non studia, non lavora, allora, non segue è corsi. Giusto, è tutto giusto, naturalmente non lavorare giovane, è l'ambizione di ogni giornalista, come sappiamo, non studiare, ci mancherebbe altro. Purtroppo l'unica cosa su cui ti devo smentire è la del giovane, perché è giovane. Sono fuori categoria, se mi prendono come fuori quota io mi iscrivo lo stesso. Dai Mauro, comunque questo IAF garantisce, cioè la garanzia giovani, è cosa di cui abbiamo parlato diverse volte anche sul Sole 24 Ore. Vedi, lui ha subito studiato l'inglese. La stiamo seguendo, monitorando passo passo, infatti. Bene. Oggi intanto, ma sento intanto bentornato. Sì, grazie, sento grazie. Che la voce non è migliorata, però. No, però, vabbè. No, abbiamo ancora dei problemi a livello fonico. Va bene. E oggi, come hai visto, ci occupiamo di evasione fiscale, però certo. Io invece ti vorrei invitare, so che tu sei sensibile sempre ai temi del mattone, e ti vorrei invitare ad andare invece nelle pagine di Norme e Tributi, perché c'è un riepilogo molto utile peraltro sul cosiddetto bonus mobili e anche il suo trattamento in dichiarazione dei redditi. Così come per la dichiarazione dei redditi non ti scordare la seconda casa non affittata, non locata, certo. Perché se ce l'hai nello stesso comune ti è tornata l'IRPEF, tu non te ne eri accorto, avevi sottovalutato questa circostanza. Lo so, avevi sottovalutato, ma l'IRPEF è tornata, così come mi pare sia tornato il campionato, mi pare, perché non ho seguito ma poi mi bene. Mi risulta di no, torna domenica e c'è il derby, tra l'altro. Torna domenica con il derby, sì. A me sembrava fosse già tornato addirittura da venerdì, poi io non so, onestamente stavo lavorando e non ho potuto seguire le vicende, però mi era parso di capire che il campionato fosse tornato. Arrivano i premi INAIL, ne parliamo oggi su Sole 24 Ore, cioè il 16 maggio si va a pagare per l'autoliquidazione, c'è lo sconto, è uno dei pochi sconti che finalmente abbiamo visto, adesso aspettiamo quello sull'IRPEF, naturalmente il bonus IRPEF, ma lo sconto intanto sui premi INAIL c'è e spieghiamo bene come funziona sulla prima pagina norme e tributi del Sole 24 Ore di oggi. E poi preparati alle elezioni, ne parlavi, anche noi parliamo di elezioni europee, c'è una, cominciamo oggi, lo faremo per 4 lunedì, delle puntate per spiegare che fa il Parlamento europeo, soprattutto cosa farà, perché dopo queste votazioni diventerà più importante. Più importante. Sono stato esauriente? Ma assolutamente, caro Mauro. E allora, ma buona molto. Settimana di preparazione al rientro e al ritorno del campionato. Mi sembrava proprio che fosse tornato. Adesso non vorrei insistere per la seconda volta, ma mi sembrava fosse tornato. Non lo so, sono va bene, faremo vedere su Twitter la vignetta di Domenico Rosa, visto che non me l'hai fatta mostrare adesso in questo collegamento. Certo, certo, va bene. Va la vedremo su Twitter. Caro Mauro, forza, forza! Alessandro Milan, il Corriere dell'Informazione! Addirittura, grazie, grazie molte. Allora, a proposito di riforme, continuando nella lettura dei giornali, oggi il Corriere della Sera racconta con Antonella Baccaro che è in via di arrivo, addirittura d'arrivo, la riforma della pubblica amministrazione. Statali, riforma al via con tagli agli stipendi. Ecco, questo è il titolo non molto incoraggiante. L'ipotesi di 5 anni di scivolo per ridurre i costi, intanto arrivano 106 nuovi dirigenti. Raccontano nei dettagli sul Corriere, tutto è pronto per il debutto della riforma della pubblica amministrazione firmata dal ministro Madia, che dovrebbe arrivare questa settimana in Consiglio dei Ministri. È quella con le parole d'ordine: incarichi a termine, mobilità interna, retribuzioni legate al merito, a partire da quella dei dirigenti, della quale dovrebbe essere rivista la parte variabile, e poi la staffetta generazionale col pensionamento dei dipendenti più anziani, soprattutto tra i 280.000 dirigenti della pubblica amministrazione, per fare posto ai più giovani. I principi sono questi, c'è qualche dettaglio, ovviamente sono anticipazioni tema per tema, dalla staffetta ai dirigenti pubblici, alla mobilità interna, al merito, alle retribuzioni, dettagli e anticipazioni che ci sono sul Corriere della Sera, pagina 17. Ovviamente non c'è nulla di deciso, sono indiscrezioni di quella che dovrebbe essere la riforma in arrivo questa settimana. Registro sul Giornale un titolo di prima pagina e soprattutto un editoriale di Alessandro Sallusti molto duro nei confronti di Eugenio Scalfari. Voi direte, vabbè, ma sono polemiche tra colleghi, tra giornalisti, un po' è così, però mi ha incuriosito e mi ha colpito perché Alessandro Sallusti mette nell'editoriale anche un capoverso, l'ultimo, un po' ambiguo, nel senso suona come una sorta di minaccia, una minaccia preventiva. Il titolo è Le vergogne di Scalfari. Allora, se la prende Sallusti, perché Scalfari ieri ha detto che i magistrati si vergognano di essere in un paese, ha scritto su Repubblica, in cui i magistrati hanno dato una pena mite a Silvio Berlusconi, questo in estrema sintesi ha detto Scalfari. E allora Sallusti dice: io mi vergogno per il mio paese, ne faccio parte, e per me che ne faccio parte mi vergogno che Scalfari non abbia mai pagato dazio per essere stato tra i primi firmatari del manifesto condanna a morte che ha portato all'assassinio del commissario Calabresi, o mi vergogno perché il condannato Scalfari, che prese 15 mesi di prigione erogati nel 68 per i falsi dell'inchiesta su un falso tentativo di colpo di Stato per evitare il gabbio, elemosinò alla casta della politica l'immunità parlamentare facendosi eleggere alla Camera nelle liste del PSI. Ma soprattutto, ecco il capoverso finale, la terza questione, scrive Sallusti, è più delicata e meno conosciuta. Scalfari sa bene che deve proprio alla generosità, alla correttezza di Berlusconi, se nulla è mai trapelato dai tempi della trattativa Mondadori Espresso su fatti e accordi privati che quelli sì potrebbero gettare disonore e vergogna non sul paese ma su di lui, poco irreprensibile moralizzatore non da quattro soldi. Questa frase che vuol dire? Insomma, Sallusti dice che ci sarebbero delle accuse, accordi privati e fatti privati che, se emergessero e che non sono emersi grazie a Berlusconi, getterebbero disonore sulla vita di Eugenio Scalfari. Insomma, è una frase un po' oscura, ambigua, che rivela qualcosa. Qualcosa che Sallusti dice evidentemente di sapere. Va bene, andiamo avanti con la cronaca. Non ho letto le tantissime pagine, ma potrete fare una incetta di pagine legate alla vicenda della canonizzazione doppia ieri di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, con il milione abbondante di fedeli che si sono riversati a Roma. Ripeto, il Corriere dedica le prime 11 pagine a questo tema, la Repubblica le prime 9 pagine, ma comunque moltissimi quotidiani sono molto concentrati su questa vicenda. C'è anche la classica pagina sulla quale stendiamo un velo pietoso di colore sul selfie e la mania dei selfie, anche cardinali, porporati, vescovi, tutti questi capi di Stato col selfie con il Papa. Va bene, lasciamo perdere. Mi ha colpito di cronaca che cosa? La pagina e l'inchiesta della Stampa, pagina 16, slot e poker online. In Italia ci casca un minore su 5. È uno studio, come racconta Maria Corbi sulla Stampa, pagina 16, uno studio della Società Italiana Medici Pediatri e dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Un minore su 5, nonostante sia vietato, riesce a giocare al gioco d'azzardo legalizzato. Chi con testimonianze, videopoker, come si aggira tutto questo? Beh, mancanza di controlli, a volte alcuni minori addirittura danno i soldi a degli adulti che entrano nelle sale da gioco e giocano per loro. Sta di fatto che un minore su 5, uno su 5, anche di 14 anni, anche 13 anni, riescono a giocare al gioco d'azzardo legalizzato. Trovate tutto sulla Stampa, pagina 16. Care donne di tutto il mondo, sappiate che George Clooney è fidanzato ufficialmente con l'avvocatessa Amal Alamuddin, 36 anni, devo dire un fior di avvocatessa, come potete vedere dalle foto, ma è il momento conclusivo, il momento della carta costa, che torna con la vittoria oggi di Repubblica, che dedica una pagina con Enrico Franceschini a William, Kate e George, il nuovo brand reale che salva la corona. Una pagina intera al nuovo brand reale. Loro tre. Ecco, dico solo che la carta costa e niente di più.